Buonasera e bentornati a Ethno Chic. Sono io, Vladimiro. E buonasera, Azul. Buonasera. E continuiamo questo percorso anche con molte divagazioni attraverso l'area balcanica e vicina ai Balcani. In questo caso siamo proprio a nord, siamo tra il Danubio e i Carpazi, per così dire. E dopo esserci soffermati sulle musiche per archi della Transilvania, con tutti gli apporti che le varie culture e le esperienze dei vari musicisti, insomma, hanno portato questa tradizione che appunto continua di generazione in generazione con dei caratteri abbastanza, insomma, continui, andiamo invece a vedere un po' tutta l'eterogeneità che il passare del tempo e gli apporti di esperienze differenti portano a queste tradizioni musicali. Abbiamo cominciato e questa sera ci soffermeremo soprattutto su quello che ci arriva, quello che un po' vi facciamo sentire dalla Moldavia, insomma, questa regione più che un paese, perché sì, è uno stato anche da più di 20 anni, uno stato indipendente, prima faceva parte dell'Unione Sovietica. Però in realtà è anche una regione, in quanto parti della Moldavia fanno parte della Romania e poi ha tutta una storia come Moldavia, anche che risale indietro nei secoli e da qui è anche il suo essere comunque una zona di confine quasi a ridosso del Mar Nero, incuneata appunto tra l'Ucraina e la Romania, porta al sì che sia stata un'area di grandi scambi culturali anche qui tra Oriente e Occidente, una zona molto appunto ponte tra queste culture. E noi abbiamo cominciato con una cosa abbastanza moderna, che in realtà non è è un disco di un ensemble che vede un disco che è stato realizzato dall'etichetta francese Silex, che non so neanche se ci sia ancora, insomma, è un disco del 1993 registrato a Mosca da questi musicisti moldavi che chiamano il loro progetto Trigon, e sarebbero il violinista tradizionale Anatoli Ștefanets, che appunto in questo caso però sentiremo poi un altro brano più simile, insomma, più vicino alla musica tradizionale. Questo violinista qui suona la viola, è un violinista tradizionale che ha suonato come Lautari, quindi come musicista di matrimonio, ma che ha anche studiato al conservatorio, perché chiaramente la tradizione musicale molto forte di queste aree spesso poi è arrivata anche addirittura a essere un po' la base, la sostanza di una possibile, come dire, anche Cultura e storia culturale di un paese. Quindi giustamente, per esempio, in conservatori della Romania, e quindi e anche della Moldavia, insomma, si insegna anche la musica popolare e quindi lui ha potuto fare degli studi, in realtà poi ha fatto anche studi classici e quindi proprio in questo disco, ma anche in alcuni altri, ha fatto delle registrazioni proprio di musiche tradizionali con il suo complesso, insomma, e in cui poi suona anche appunto la viola, ed è una cosa abbastanza particolare, se si vuole. E in questo disco è un disco piuttosto singolare anche quello, e lui è accompagnato da questi due musicisti che sono Sergei Testimazzanu, e Sergei suona il basso, e poi c'è il batterista che è Oleg Baltaga, che poi era il protagonista di questo primo brano, che in realtà è l'ultimo di una suite che si chiama The Moldovan Wedding in Jazz, cioè il matrimonio moldavo in chiave jazz, che è un po' la suite, il concetto base di questo disco, ovvero sia una specie di ricostruzione attraverso dei quadri di un ipotetico matrimonio in cui, oltre ai richiami alle melodie tradizionali, a cui insomma, che è poi la traccia di riferimento a questa composizione, possiamo definirla così, di questo trio, sono melodie della tradizione rumena, bulgara e moldava, e si aggiungono le influenze di altri stili, quindi del jazz, del rock. Questo era uno degli ultimi, praticamente la traccia sarebbe proprio il matrimonio, dalle promesse dei due sposi fino a tutta la cerimonia, la vestizione, il corteo nuziale, fino poi a questo brano si chiamava On the Road to Chisinau, che sarebbe, o Chisinau, sarebbe la capitale della Moldavia. Ed era un brano dove avete sentito l'improvvisazione con la batteria, era molto, molto raffinata nei suoni. E appunto, andiamo a sentire come altra traccia, continuando e per spezzare un po' questo discorso, che non sia troppo lungo, un brano che si chiama Hora e che sarebbe la danza moldava, in cui sempre questo Teo Trigon ci fa sentire, insomma, la loro rielaborazione e reinventazione di queste tradizioni. Thank you. Thank you. insomma, sì, un album questo che in qualche modo, insomma, chiaramente si sentono tutti gli influssi di varie culture musicali, e comunque la cosa più interessante è che appunto questi tre musicisti sono moldavi, conoscono bene la tradizione da cui vengono e la, come dire, la rielaborano in un modo che a nostro parere è piuttosto interessante. È sì, molto particolare, perché questo violino molto... in questo caso è una viola. Ah, la viola, perdonami. Sì, ma molto, molto, cioè, pulita, molto elegante. E dietro c'è quello battito dei basso, tipico un po' del rock, diciamo così, o sì, d'un funk. Anche della, poi lo sentiremo, sì, che comunque è tipico in questo caso dell'accompagnamento che fa questo strumento, che è il cobza, a seconda se si vuole usare la dicitura, che è uno strumento che viene appunto dall'impero ottomano e che fa una specie di liuto che fa l'accompagnamento in questo modo molto... Quindi particolare, ci ritroveremo, e in realtà questa commissione e stratificazione di culture differenti che questo gruppo ripropone è una cosa che poi nella musica tradizionale di un paese come la Moldavia si ritrova, e lo vedremo soprattutto stasera nell'opera e di questo musicista, questo violinista che pare che sia scomparso qualche anno fa, era piuttosto anziano, Aurel Mandace, il quale era uno chango, che è la minoranza ungherese che vive in 5 villaggi della Moldavia rumena, e il quale proprio nel suo repertorio di danze rispecchia tutte queste stratificazioni, scambi culturali e danze di etnie diverse. Ma prima di passare a questo, volevo fare un piccolo omaggio a una figura molto importante nella storia della musica ucraina, ucraina, moldava, e non soltanto, che è questo Dmitri Cantemir, che è stato anche per un periodo vissuto tra gli ultimi 30 anni del XVII secolo, e morto nel 1723, è stato anche voivoda della Moldavia per qualche anno, quindi principe, ma sostanzialmente è stato un grande letterato e uno dei primi a interessarsi alla musica orientale, ottomana, e anche della musica del proprio paese, un po' anche forzatamente, perché da giovane si ritrovò a Istanbul a studiare presso la corte ottomana, e da lì la sua passione che poi approfondì, e quindi è stato il primo proprio a fare degli studi, a raccontare la storia della musica di quel tempo e occuparsi di musica ottomana, e di lui sono rimaste anche delle composizioni, perché era anche un compositore, di cui appunto vi andiamo a far ascoltare una parte di queste composizioni. E è importante anche di dire che ad esempio c'è stata quasi una voga in Moldavia, insomma, tra il 1600 e il 1700, della musica, interesse per la musica ottomana, anche per la musica greca, in quanto poi si ristampavano anche alcuni classici della letteratura cortese del Rinascimento ellenico, per esempio l'Erotocrito di Vincenzo Cornaro, che infatti venne ristampato appunto nel 1700 nel XVIII secolo, non ricordo adesso a memoria l'anno. E quindi c'è questo grande interesse da parte del piccolo principato di Moldavia verso la cultura dei vicini ottomani, poi anche faceva ma sicuramente poi in quegli anni alla corte ottomana di Costantinopoli, di Istanbul, c'era un grande afflusso di compositori, e di compositori da un po' tutte le province, scambi culturali con Venezia, insomma. E ce ne siamo occupati anche l'anno scorso, una puntata, quando abbiamo parlato appunto di seminari che ogni anno la Fondazione Cini dedica appunto alle musiche delle corti ottomane tra il XVII e il XIX secolo. E andiamo ad ascoltare questo brano del principe Cantemir. Thank you. Thank you. quindi questo era una suite di brani di Dmitri Cantemir, questo letterato, compositore, studioso delle musiche delle ottomane e anche principe, insomma, di Moldavia per qualche anno, tra la fine del 1600 e la fine del 1700. E questo per queste tradizioni non si limitavano a musicali, a fiorire soltanto nelle corti dei voivodi, dei principi della Moldavia, piuttosto che nelle corti dell'impero ottomano, ma si muovevano attraverso i musicisti, che erano questi lautari, che ancora oggi, insomma, sono i musicisti che suonano appunto nelle feste, nelle nozze, nelle occasioni, per i villaggi, per i paesi. E questa tradizione dei lautari, che ormai è secolare, appunto anche in Moldavia ha i suoi esponenti, di cui Aurel Mandace si può considerare, questo violinista che adesso andremo a sentire, un importante esponente, anche perché è stato un po' un riferimento anche per chi si voleva recuperare la tradizione, il folk revival, e andare a, come dire, a imparare questi repertori particolari per quanto riguarda, rispetto a quelli che abbiamo sentito della Transilvania. Sono brani che risentono molto di questo scambio tra culture diverse, ci sono danze russe, serbe, sirbe e ore di ascendenza più rumena, tempi dispari. E che dire, direi che possiamo proprio ascoltare alcune di queste danze, che andiamo a ascoltare una suite che sono questo Serenyi Magyaros, e poi una danza Erdélyes e una Zsámpara, e poi faremo altre due chiacchiere, ma lasciamo spazio alla musica per sentire un po' anche alcuni aspetti, cosa caratterizza questo tipo di musica. E mi fermo un attimo perché in questa Sereni Magyaros, in questo brano danza ungherese che è molto diverso dalle Charder che abbiamo visto, ci sono un po' i caratteri proprio che denotano questo tipo di musica da villaggio, possiamo dire, moldava. Quindi una grande uso delle percussioni come accompagnamento ossessivo e anche lo strumento a corda che accompagna sotto, il koboz, appunto questa specie di liuto che fa un accompagnamento cordale però molto semplice, sostanzialmente che accentua questa percussione, no? E poi ci sono il violino e il flauto diritto che tengono le melodie, quindi insomma sostanzialmente un repertorio abbastanza monodico, non polifonico, cosa che poi è comune a tutta un po' la tradizione sicuramente ungherese. E poi l'altra caratteristica è appunto questo, il fatto che insomma c'è quasi appunto una voce, l'accompagnamento percussivo che si richiama poi alla tradizione turca, insomma del tamburino e del piffero, che sarebbe un po' la base poi di tutte queste varianti, no? Che poi ritroviamo dall'isola di Creta fino appunto alla Moldavia, con tutte le varianti strumentali possibili e immaginabili. Continuiamo questo ascolto di queste musiche. Thank you. abbiamo visto è sempre lo stesso violinista, sempre Rael Mandace con il suo gruppo che si chiamava Carpathia Orchestra, il gruppo con cui ha registrato questi dischi, che poi erano, c'erano anche insomma musicisti più giovani che erano un po' suoi allievi, appunto persone che venivano magari da molto lontano per imparare le sue musiche. Lui poi invece suonava con altri musicisti di villaggio di Bacò, adesso poi sentiremo proprio una sirba di Bacò, che sarebbe poi Bacciao. E cosa volevo dirvi? Volevo dirvi, insomma, avete notato che cambia un po' già qui il colore, le strutture sono più complesse, questa giampara finale per esempio era in tempo dispari, le melodie sono più notiche, più vorticose, più cromatiche. Sì, sono molto... rispetto a quello che abbiamo sentito prima, lo stesso musicista, che erano... cioè, erano sempre quello ripetuto, è piuttosto quadrato. Sì, questo invece non ci ti avvolge, ti trascina dentro, forse perché non so qual era la funzione. Un altro tipo. Sì, tipo ma la funzione di questa così. Musica non lo so, però sono ti invita molto per ballare. Sono tutti dei balli, però sono balli differenti e di culture differenti. Per esempio, le prossime sono appunto due sirbe. Una di Bacò, quell'altra della Tissa, che è un fiume, e poi c'è proprio una danza russa, la Ružačka, e questo un po' risente delle culture appunto sia slave che anche russe, non solo, e poi anche della musica della Romania, insomma. Andiamo ad ascoltare quindi tutto questa Tissi serba, poi una Bacoi serba e la Ružačka, ovvero sia la danza russa. Thank you. Con questa vorticosa danza russa, questa Ruzhaska, vi salutiamo. Così, dandovi appuntamento alla prossima puntata, altri, come dire, finestre aperte sull'Europa dell'Est musicali. Buonanotte. Buonanotte. Grazie.